Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, anzitutto tanti auguri di buona Pasqua. Vabbè, la Pasqua è quasi passata, però domani è Pasquetta e quindi vi auguro di trascorrerla in serenità. Oh, stasera manca il nostro Antonio. Antonio aveva impegni diversi e ha dovuto mancare proprio il giorno di Pasqua, ma noi lo perdoniamo, vero? Ecco, comunque mi ha incaricato di salutarvi tutti e di fare a tutti tanti auguri di buona Pasqua. In compenso però qui noi stasera abbiamo un ospite illustre, ma se dico illustre non lo dico tanto per dire, lo dico perché è veramente così. E intanto auguriamo la buonasera e una buona Pasqua al nostro professor Paolo Ruffilli. Buonasera professore. Buonasera. E benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie. E per me è veramente un onore che lei sia qui con noi, sa? E per me è un piacere. Ecco, così che so che, beh, dopo vedremo nel corso della trasmissione quante cose che lei ha fatto. Intanto è molto attivo nella poesia contemporanea. Ma adesso leggiamo un pochino, cioè, vediamo un po' che cosa ci dice il nostro curriculum. Ah, volevo dirvi anche che la trasmissione che va in onda ogni domenica dalle 21 alle 22 potete ascoltarla anche in streaming su internet e poi il giorno dopo o dopo un'ora, un'ora e mezza potete anche scaricarla da internet e tenervela da conto se la trasmissione è piaciuta. E vabbè, allora noi incominciamo subito. Vediamo, il nostro professor Paolo Ruffilli è nato a Rieti nel 1949, ma è originario di Forlì e vive dal 1972 a Treviso. Si è laureato in lettere presso l'Università di Bologna. Per anni ha collaborato alle pagine culturali di quotidiani quali Il Resto del Carlino, Il Giornale, La Repubblica, Il Gazzettino. Fa il consulente editoriale. Per 20 anni ha lavorato per l'editore Garzanti. Oggi dirige la collana di poesia delle Edizioni del Leone di Venezia. Quando si parla, vi scuso l'interruzione, quando si parla con i nostri poeti, con i nostri autori di romanzi, che mi dicono, io ho pubblicato con il professor Ruffilli, proprio sento che sono felici di pubblicare con lei. Quindi no. Allora, il professore è autore di romanzi e di racconti ed è conosciuto a livello internazionale per i suoi libri diversi tradotti in molte lingue. Della sua poesia si sono occupati criticamente nomi come Alberto Azor Rosa, Roland Barthes, Giovanni Giudici, poi abbiamo Eugenio Montale, Alvaro Mutis, poi abbiamo Raboni, Vittorio Sereni e Andrea Zanzotto. Quindi tanta gente. Poi scusate, ma io posso nominarvi quei pochi, perché altrimenti se io mi metto a dirvi tutto quello che il nostro professore ha scritto, mi ci vuole tutta la trasmissione, ma siccome voglio lasciare più minuti lasciamo a lui e meglio è. Beh, andiamo avanti e adesso vi dico, ha pubblicato di poesia. Allora, Notizie dall'Esperidi, poi Piccola colazione, poi American Poetry, Prienz, scusatemi, io l'inglese non lo so molto bene, Diario di Normandia, questa è del 1990, Premio Montale e Premio Camaiore, Camera Oscura, 1992, Premio Dessì, nuvole con foto di Reuters. Poi abbiamo La gioia e il lutto, che l'ha pubblicata nel 2001. Prince European, premio Giovanni Pascoli, Le stanze del cielo. Poi abbiamo premio Regium Iuli, Affari di cuore, Natura morta. Insomma, ne abbiamo tantissimi che, come dicevo prima, se li nomino tutti non finiamo più e non lasciamo più lo spazio al nostro professore. Queste poesie sono state tradotte anche in diverse lingue. Abbiamo traduzioni in francese, traduzioni in inglese, in tedesco, in spagnolo, in catalano, in olandese e in rumeno. Beh, mi pare che sia veramente tanto, eh? Bene, non voglio far perdere altri minuti al nostro professore, e allora prima ci ascoltiamo un brano musicale e poi lasceremo tutto lo spazio al professor Ruffilli. Questa sera non vi farò ascoltare canzoni, ma bensì brani strumentali. Il primo brano strumentale è This Is My Song, questa è la mia canzone. E questo vorrei dedicarlo a un caro amico, un ascoltatore assiduo che venerdì scorso ha compiuto gli anni, e quindi tutto per lui è This Is My Song. Eccoci di nuovo in studio. Allora, professore, stasera di che cosa intende parlarci? Cioè, tra tutte le cose che ha scritto, non so. Bah, parliamo di poesia, naturalmente, in primo luogo, e visto il tempo della Pasqua, ho portato con me un lungo poemetto che è dedicato appunto alla passione, morte e resurrezione del Cristo, ispirato ai Vangeli, che penso sia magari l'occasione anche per una verifica a specchio con quello che sta succedendo appunto in questi giorni, che è culminato oggi, e leggerò qualche brano di quello, ecco. Naturalmente per me la poesia è un interesse primario nella mia esperienza, e quindi ho sempre dedicato moltissimo tempo e dedico moltissimo tempo alla poesia, e penso alla poesia sempre come ad una pratica esoterica, quindi come una ricerca delle ragioni profonde, oltre che di un'identità. È da questo punto di vista appunto che mi affascina, e per me la poesia non è solo una cosa, può essere tante cose diverse, quindi per me fare poesia significa rivolgermi agli argomenti più diversi, e tra questi sicuramente uno spazio che è sempre stato ampio e ricorrente è proprio quello legato alla tradizione religiosa, alla spiritualità, e quindi ecco la ragione per cui ho portato questo poemetto qui questa sera. Benissimo, allora l'ascoltiamo. Allora, se vuole, intanto leggo un primo brano. Sì, sì, sì, poi prego, parliamo. Prego. Sì. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Son forse io, Signore, preso a chiedergli i discepoli stupiti che potesse uno di loro mai averlo fatto. Uno che ha messo, insisteva Gesù, nell'inseguirlo e stanarlo senza posa, la mano con me nello stesso piatto. Finto sollecito per quella cosa nell'attenzione generale, son forse io, Signore, pure lui chiedeva. Tu l'hai detto, gli rispose, guardando negli occhi il traditore, a cui rotolava come un masso in mezzo al petto il cuore. Bello. Ecco. Bello. Il tradimento di Giuda. Ecco il tradimento di Giuda, sì, che ma sembra impossibile che questa persona affezionata, sì, che lo seguiva, che avesse potuto per 30 denari tradirlo così, insomma. Sì, e il tradimento di Giuda è in qualche maniera un archetipo, è un riferimento proprio anche per la riflessione degli uomini, certo, no? Certo. Sul fatto che noi uomini, per come siamo fatti, siamo anche capaci di tradire. Ma sul tradimento naturalmente il discorso sarebbe lungo. Da un certo punto di vista c'è chi appunto fa osservare, a proposito del tradimento di Giuda, che questo tradimento era necessario dal punto di vista dell'evoluzione dei fatti, delle vicende relative anche a le Gesù, profezie, sì. Ecco, che tutto si realizzasse e che quindi si potesse compiere questo sacrificio appunto sulla croce. E d'altra parte diciamo che questo è un tradimento che poi ha condizionato molto l'idea che gli uomini si sono fatti e hanno continuato ad avere intorno al tradimento e al tradire, perché il tradimento non è sempre e solo un fatto negativo. Perfino quello di Giuda non è un fatto solo negativo per le conseguenze che avrà nel compimento, sì, di quello, certo, che è stato profetizzato, certo. Ma nelle vicende umane delle volte tradire non è affatto una cosa ignobile o negativa, ma può essere quel doppio salto mortale che porta alla salvezza. Insomma, ci sono tradimenti e tradimenti. Del resto questa parola deriva dal latino tradere, che significa affidarsi, che ha quindi inizialmente un valore addirittura positivo, affidarsi nel senso di avere fiducia in qualcosa di rivoluzionario che può cambiare radicalmente la situazione, no? Ecco, tanto per cominciare a dire quali sono le cose che per esempio mi intrigano in poesia. Una cosa come il tradimento di Giuda è una cosa che naturalmente trovo sempre interessante proprio per approfondire. Io non so perché il tradimento l'ho sempre vista come una cosa brutta, come una cosa sì, mi fido di te, però tu a un certo punto mi tradisci. Non l'ho mai vista io in maniera positiva. Ma ci sono tradimenti e tradimenti, dipende. Non sempre diciamo le cose stanno così come lei mi dice in questo momento. Cioè ci sono situazioni che vanno rotte perché improvvisamente si scopre che in realtà diciamo questa fiducia è stata mal riposta nel momento in cui ci si è dichiarati fedeli. Allora una fiducia mal riposta deve presumere il coraggio di spezzare, di rompere questa fedeltà. Voglio dire, sì. Io personalmente per esempio non considero un tradimento nel senso negativo il fatto che a un certo punto per esempio il nostro paese, l'Italia, ha rotto il patto con la Germania nazista. Quello è un tradimento positivo, non è negativo. Certo, certo, ecco. In questo senso sì. Ma questo può valere anche nel rapporto tra le persone. Ci può essere un patto fatto secondo principi che poi non trovano applicazione nella vita quotidiana, per cui la persona di cui ci si è fidati in realtà rompe la nostra fiducia e quindi in qualche maniera ci può spingere a rompere noi il patto. Sì, certo, ecco. Certo, certo. Questo sarebbe il primo brano del poemetto? Sì, non è il primo, è diciamo in realtà il secondo brano. Quello successivo continua proprio con Giuda e con la vicenda di Giuda, che naturalmente lei appunto prima diceva come è possibile per 30 denari tradire. Ve lo leggo, è breve, dice: «Che cosa mi darete in cambio?» aveva chiesto, accordandosi da tempo per la consegna, appena si fosse presentata l'occasione. 30 denari per compenso», gli avevano risposto i grandi sacerdoti. «Avrebbero avvisato lui dove trovarlo e quando, senza difesa, arreso e disarmato, al Monte degli Ulivi. Giuda, arrivando, gli corse incontro. «Salve, maestro!» e lo baciò, già prima di salire all'orto. «È proprio lui che bacerò. Prendetelo», aveva detto agli sgherri del Sinedrio, ancora sulla via. Così fu preso e subito di lì portato via, senza che alcuno dei suoi facesse resistenza. «Riponi la tua spada», aveva comandato a chi lo difendeva, perché era scaduto il tempo e si doveva compiere ormai la volontà del padre. Ecco perché Giuda ha agito in questo modo. Anche se questa cosa mi ha sempre un po', sì, la sentivo ancora quando ero bambina, questi episodi, e mi hanno sempre dato un qualcosa di sconforto, di cosa non... E invece poi le cose con gli anni si capiscono di più e ci si rende conto che insomma, la cosa doveva andare così. Sì, con le sue conseguenze, anche drammatiche, certo, per lo stesso autore del tradimento, che certo, come sappiamo bene, poi si impicca. Sì. E poi, sì, non so, c'è il seguito. Sì, certo. Lui quando è nell'orto dei Getsemani. Sì, lui viene preso, poi ecco, il passo successivo, l'altro brano, dice... Dietro all'accusa di sacrilegio, per bocca di falsi testimoni, dal sommo sacerdote fu interrogato. «Sei tu il Cristo, figlio di Dio?» «L'hai detto». E Caifa, sentite, ha bestemmiato, è reo di morte, e fu legato. Lo trascinarono in catene attraverso la città. Al governatorato, gli scribi e i sacerdoti, seguiti dalla gente in processione, presentandolo a Pilato, che però lo rimandò da Erode perché se ne occupasse come re della Giudea. Questi lo accolse con disprezzo, consegnandolo ai suoi, che gli misero addosso un manto di porpora e in capo una corona fatta di spine. E «Salve, re dei Giudei!» sputandogli addosso lo strattonavano. «Tu che distruggi il tempio e lo rifai in 3 giorni, salva te stesso!» lo schermiva la soldataglia nel riportarlo da Pilato. Di nuovo nel pretorio, perché proprio dal potere di Roma voleva Caifa che fosse condannato, e Pilato, sperando di vedersi sollevato da una condanna che non aveva colpe, «Dei due quali volete che mandi libero?» gridandoli mostrava, e il popolo, aizzato dagli emissari di Caifa e dagli anziani, scelse Barabba. «Che devo dunque fare di Gesù?» chiedeva al popolo, che scalmanato «Sia crocifisso!» rispondeva. Ma non ha fatto, lui insisteva, niente di male, sia crocifisso. E al tumulto che gonfiava ormai in rivolta, si lavò le mani con l'acqua che un servo gli versava di fronte alla platea. Ch'io sia purificato dal sangue innocente del giusto che volete condannato. Sì, però poi chissà perché va bene che era scritto nella profezia, ma proprio hanno usato una cattiveria verso Gesù, che è una cosa... Sì, sì, che diventa... No, è veramente, perché, insomma, mettergli la corona di spine, flagellarlo, insomma, anche perché in sostanza lui, più che predicare per le strade, non aveva fatto niente di male, insomma, non capisco. Ma mi sono resa conto che in ogni epoca ci sono i momenti, i periodi di cattiverie. Certo, ma questo del resto è emblematico anche di una certa realtà cruda e triste che riguarda noi uomini, certo. Di come per esempio in gruppo si inneschi quel tipo anche di malvagità che altrimenti individualmente si disperderebbe o si farebbe molto più attenuata, certo. Invece in queste circostanze proprio si va all'eccesso in forme che abbiamo visto tante volte, in tante occasioni della storia, che appunto sono estremamente crudeli. Sì, perché si incitano uno con l'altro, e chissà perché uno quando è in compagnia che ha, le pare di essere un re, di avere 100.000 volte forza di più di quello che avrebbe se fosse solo, insomma, ecco. Certo, è quello che del resto proprio anche la psicanalisi ha più volte sottolineato, cioè questo tipo di appunto l'unione che fa la forza, ma in senso negativo, non solo in senso positivo. Sì, appunto. Per reciproca influenza si travalicano i limiti, i freni inibitori, insomma, si compiono gesti e cose che sono estremamente negative, no? E che normalmente uno da solo non farebbe. No, generalmente uno da solo, sì, difficile, perché si sente come le spalle scoperte, quindi non riesce ad agire come agirebbe in compagnia. Ci fermiamo un attimo, professore, per un altro brano, che è Maria Elena, eseguita dall'orchestra Indios Tabajara. Comunque a me è sempre piaciuto, l'ho sempre ascoltato con interesse questa passione e morte di Gesù, e come le dicevo prima, che noi con la signora Bolzan, che ricordo sempre con piacere, si andava nelle chiese per, durava un'ora e mezza di più, l'ho sempre seguita con interesse, con passione, e anche, se devo dire la verità, non mi ha mai stancata. Vabbè, a lei la parola. Niente, proprio lei faceva riferimento a quel testo teatrale interessante che è appunto Processo a Gesù di Diego Fabbri, che effettivamente è un testo articolato che affronta, tra l'altro da un'ottica estremamente moderna e perfino laica, la figura di Gesù e la sua passione e morte. Quindi capisco la vostra passione in giro per le chiese, appunto, a rappresentarlo. Freddo a parte. Freddo a parte. Niente, per quello che riguarda il mio poemetto, la parte conclusiva la affiderei proprio alla sua lettura. Va bene. Allora, versione poetica di Paolo Orfilli. Gesù fu flagellato, preso in consegna dagli uomini di Erode, e mentre lo portavano al luogo di passione, bloccarono nei campi Simone di Cirene e gli misero la croce addosso al posto di Gesù. «Viene, viene!» urlavano. «Eccolo laggiù!» E lo seguiva da vicino una folla di gente e tante donne si battevano il petto piangendo su di lui. Vedendole Gesù si volse a quelle pie. «No, non piangete più per me, ma per voi stesse e per i figli che farete, perché per forza verrà giorno in cui si griderà: beate le sterili che non hanno generato, e per quanto ci sarà stato in giro per il mondo, dirà qualcuno alle montagne: cadete per ricoprirci tutti a fondo. Perché se tanto si fa al legno verde, cosa accadrà allora al legno secco? Sono venuto a portare fuoco sulla terra e in nome della pace suscito la guerra». Saliti al Golgota, cercavano di fargli bere un vino mescolato con la droga per annebbiargli l'arrivo della morte, e si dividero le vesti intanto lì ai suoi piedi, tirate a sorte. Dei due ladroni in croce gli si affidava uno, e nell'assicurargli accanto a sé un posto nel regno di suo padre mormorava: «Sono io il risorto. Chi crede in me vive in eterno anche se morto». Dall'ora sesta fino alla nona le tenebre gonfiando nascosero la luce. Gesù gridava esanime: «Mi affido, Padre, alle tue mani». Corse qualcuno a prendere una spugna per bagnargli le labbra con l'aceto mentre esalava l'ultimo respiro. Tremò la terra e dentro il tempio un velo si squarciò da capo a fondo. Dio non ha mandato il Figlio suo perché condanni il mondo, ma perché il mondo per mezzo suo venga salvato. Ai piedi della croce, mentre lo spirito volava via, il suo discepolo Giovanni si ricordò la profezia. Ecco, e così finisce il poemetto. Sì, e naturalmente il riferimento è ai Vangeli, non solo ai quattro Vangeli, ma anche a quelli, diciamo, non riconosciuti. Ho sempre trovato molto interessante la lettura dei testi sacri in generale, ma in particolare dei Vangeli. E una delle cose che mi ha sempre colpito e coinvolto è proprio questa, come dire, capacità linguistica tipica, insomma, del discorso del Cristo, della contraddizione, cioè la contraddizione come elemento positivo. Per esempio, in quel passaggio dove dice, no, sono venuto a portare fuoco sulla terra e in nome della pace suscito la guerra. Cioè la capacità del paradosso, cioè ricorrere al paradosso per esprimere una realtà che è una realtà sempre contraddittoria, che quindi non si può rappresentare solo in maniera convenzionale, con il linguaggio convenzionale, con quello apparentemente coerente. C'è bisogno di, paradossalmente, di una incoerenza per esprimere tutte le parti ambigue, in ombra, nella vita, che tuttavia sono occasione e forza del positivo, perché poi è questo che continuamente riluce nella predicazione e nel messaggio del Cristo, cioè come in realtà la morte sia il principio della vita, cosa che per noi uomini è sempre, come dire, difficile da accettare, ma su cui non solo il cristianesimo, ma tutte le religioni storiche, ma anche la grande tradizione sapienziale insiste moltissimo: il principio della vita è la morte, e dove c'è la morte che c'è la vita. Paradossalmente non il contrario: una vita senza la morte è inconcepibile. E più volte il Cristo ribadisce il concetto quando dice che chi è che si salverà la vita? Chi appunto ci rinuncerà. Quindi è un modo, un altro modo per sottolineare questo aspetto della necessità di morire per rinascere, per risorgere, no? E poi la Pasqua, il mistero della Pasqua. Certo, è proprio quello. È questo, è certo. Io però, sì, è vero, ma quando penso alla morte, non so perché, bisognerebbe proprio pensare alla morte come una rinascita, bisognerebbe riuscire a fare questo. E d'altra parte, come dire, è così anche nei fatti più spiccioli, nella dimensione più materialistica di questo mondo, è evidente che solo ciò che muore consente di far rinascere. Cioè senza la morte non ci sarebbe, certo, la vita. Non c'è la, d'altra parte anche si vede l'evoluzione della natura, no? Certo. Perché noi facciamo parte di questo. Certamente. Questa. Solo che tante volte uno riflette e dice, ma perché io cerco nella vita di fare, ma non so, si guardano tante cose, si guardano le città, tutte queste belle cose che l'uomo può, e dopo si dice, ma perché a un certo punto bisogna rinunciare a tutto? Però adesso mi sto rendendo conto che col passare degli anni pian piano non hai più quel terrore della morte come si aveva mai da giovani. Certo, io alla morte ho dedicato un intero libro, oltre che tante pagine in tanti altri libri, e cioè La gioia e il lutto. La gioia e il lutto, sì, che ne ho letto un bel pezzo l'altra sera. Sì. E effettivamente mi ha fatto molto molto riflettere, molto. Desidera leggere qualche passo di questo? Beh no, magari parlarne insieme, sì. Se ne ha voglia. Sì, sì, sì, sì. Beh, cioè io leggevo di questa persona che non avevo ben capito se era il figlio che doveva morire o il padre. No, il figlio, ecco, allora sì. Ho capito giusto io. Sì, sì. Ecco. Perché diciamo che il libro è incentrato sulla storia di un giovane che muore appunto in giovanissima età, perché poi uno degli aspetti più drammatici in fondo della morte e del morire è proprio la morte che colpisce i giovani, i più giovani. Questo in tutte le tradizioni, in tutte le esperienze, in tutte le riflessioni, anche in quelle più negative, come dire, e più laiche. Se pensiamo a Leopardi, sì. Che sottolinea che la persona che muore da giovane ha, come dire, una sofferenza in più, perché ancora non ha capito che tutto sommato la vita non è quell'esperienza esaltante. È chiaro che Leopardi è un pessimista. Beh, sì, beh, ma... e quindi muore con una un'illusione in più, cioè che, perché ancora non ha avuto il tempo di disilludersi, no? È chiaro che nella mia esperienza invece diciamo l'attenzione alla morte parte da una prospettiva diversa, che è una prospettiva proprio anche di esperienza personale. Essendo io un affogato riportato in vita, ah, sì? E quindi avendo fatto un tipo di esperienza che in un certo momento della mia vita ha cambiato la prospettiva e tutto quello che pensavo della morte e del morire. Mi scusi, questa è una cosa molto interessante per me, se le va di raccontarmi un pochino. Sì, volentieri, perché ecco. Per me non è un tabù. Certo, anch'io dopo quell'esperienza ho avuto necessità di qualche tempo per elaborare il mio lutto personale, perché succede sempre così, bisogna sì, elaborare il proprio, certo, lutto. Certo. La cosa è capitata in un'età, tra l'altro, come dire, in qualche modo emblematica, 33 anni. Sono affogato e poi sono stato riportato in vita, ma naturalmente ciò che ha contato per me è stata questa esperienza nel corso di questo affogamento. Era perché in coma? No. Sì, certo, sono stato anche in coma e poi sono stato riportato in vita, e ecco, diciamo, è chiaro che vivendo, e quindi per forza di cose anche morendo, uno è costretto a sorprendersi sempre, e io ho cominciato a sorprendermi subito, perché avevo idea che la morte per acqua fosse una delle forme più terribili per morire. Del resto anche i poeti non hanno scherzato su questo fronte, se pensiamo per esempio a Eliot, che parla dell'affogato come colui che muore schiacciato dalla pietra tombale dell'acqua, no? Eh sì, perché è tremenda l'acqua. Ecco, ma invece l'esperienza è molto diversa, cioè dopo le prime fasi naturalmente della paura e quindi del rammarico, sorprendentemente scatta qualcosa che trasforma l'esperienza in un'esperienza positiva, estremamente positiva. Cosa che mi ha fatto capire perché chi sta morendo a un certo punto non ha più nessuna considerazione o attenzione per i vivi che cercano magari di salvarlo, come io infatti resistevo a chi cercava di riportarmi in vita, perché io stavo benissimo nella condizione in cui mi trovavo, che era una condizione non passiva ma attiva, estremamente attiva, di grande coscienza, proprio quella che poi, dopo mi sono occupato di questi argomenti per varie ragioni, è quella che si chiama l'amplificazione della coscienza, cioè paradossalmente morendo si fa l'esperienza dell'amplificazione della coscienza, quando gli altri vivi pensano che tu abbia perduto i sensi, tu invece li stai amplificando, ma non ti interessi più di loro e della vita, proprio perché vedi qualcosa che ha una tale forza coinvolgente, una tale concorrenza, che il resto non ha più nessuna importanza. Ma è vero che si vede una gran luce? Si vede certamente, l'amplificazione della coscienza è un'esperienza che a parole è difficile da rendere, ma è insieme due cose, luce e musica. Perché non sono separabili le due cose, nel momento in cui cresce la luce aumenta questa musica e uno si ritrova in quello che tutti coloro che tornano indietro chiamano il tunnel della luce, perché da un certo momento in poi, dopo aver rivisto la propria vita in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi aspetti, si entra dentro questo tunnel della luce e la cui esperienza è proprio un'esperienza di amplificazione della coscienza, perché improvvisamente i sensi, che prima agivano ognuno per conto suo, sono come intrecciati tra di loro e quindi fanno vedere e sentire quello che non si vedeva e non si sentiva prima, addirittura compresa l'evidenza reale del se stessi, del proprio corpo, cioè uno si vede anche come corpo, come se fosse al di fuori di sé. È un tipo di esperienza che naturalmente modifica radicalmente quello che uno pensava o credeva, no? Prima che gli capitasse. A me è successo questo. Certo, è un'esperienza veramente. Quindi lei, parlando della morte, non ha quel terrore che potrebbe? No, non più. Naturalmente prima ce l'avevo. Da giovane avevo una grandissima paura della morte e del morire. Scappavo di fronte a tutti i segnali di morte che arrivavano. Sì. Ma da quel momento in poi ho perso questa paura. Infatti è dopo quell'esperienza che io ho cominciato ad occuparmi della morte, di chi muore giovane, dei malati di AIDS, di queste situazioni che appunto non mi si presentavano più nel segno negativo, meno che mai della paura del terrore, ma come occasioni appunto paradossalmente di luce, di coinvolgimento, di vita, perché ripeto, la vita e comincia dopo la morte, ma comincia dentro, è nella morte, perché quello che uno fa in questo tipo di esperienza ti dà il senso del mistero di ciò che paradossalmente non dovrebbe essere, invece è, cioè uno continua ad essere cosciente anche quando gli altri dichiarano che tu hai perduto i sensi e che quindi non rispondi alle loro sollecitazioni, ma tu invece senti, vedi tutto, solo che non rispondi alle sollecitazioni degli altri. Però questo non ti dà terrore? No, assolutamente no, è una beatitudine assoluta, una beatitudine assoluta, ma di tipo attivo, proprio nel senso cioè dell'amplificazione della coscienza, quindi non è che uno è tramortito, cioè non è come se fosse in preda a una droga e quindi vaga, no, ha la coscienza, questa coscienza straordinaria che si segna proprio attraverso la luce e la musica. La luce e la musica. La luce e la musica sono l'esperienza di questa amplificazione della coscienza, il che poi mi ha fatto riconsiderare, per esempio, con altri occhi tante cose anche della letteratura, e tra queste in particolare la Divina Commedia, il Paradiso di Dante, dove si parla appunto di luce e di musica. Sì. Cioè, rileggendo ho capito quello che non riuscivo a capire prima, insomma. Ma chissà Dante come ha fatto, cioè, perché scrivere una Divina Commedia come ha scritto Dante, non lo so. Ma queste esperienze ci sono sempre state in tutte le epoche, cioè in tutte le epoche, anzi ancora più che nella nostra. Quando la morte non era un tabù come invece nella nostra epoca, c'è gente che è entrata dentro il percorso della morte, è tornata indietro e l'ha raccontata agli altri, soprattutto le persone di grande curiosità, di grande cultura come Dante era, sicuramente ha avuto a che fare, episodio, se non personalmente, certo. Certamente con qualcuno che gli ha raccontato. Sì. D'altra parte, voglio dire, era parte della coscienza generale. Vi faccio un esempio, per esempio nella pittura. Noi abbiamo un famoso trittico di Hieronymus Bosch, dove nella tavola di destra, tra l'altro questo trittico è conservato al Palazzo Ducale di Venezia, sì. C'è il tunnel della luce. Ah. Cioè in tutte le epoche si è fatto questo tipo di esperienza. Certo, sì, penso che... Ma l'ho sentito ancora... Qualcuno che mi ha raccontato un'esperienza del genere, più o meno, insomma. Certo che... E difatti dopo non hanno più paura della morte. No. E questo... Secondo me è anche un vivere meglio la vita. Certamente, certamente. Perché quando si ha il terrore della morte, ci si deprime, tanto, e invece bisognerebbe appunto... Sì, è vero. Aver paura della morte significa mortificare anche la vita. Ecco, e non vivere il momento che stai vivendo, che insomma è giusto che nella vita, visto che sei vivo, che tu viva nel miglior dei modi quello che ti si presenta. Certo. Ecco. Allora ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo un altro brano. Che bello sto discorso, mi è piaciuto tanto. Allora, adesso ci ascoltiamo La Via Rose da Jim Last. Ed eccoci ancora in studio con il nostro professor Ruffilli. Ecco, professore, lei ci parlerà ancora un pochino di quel suo lavoro Gioia e Lutto? Sì, volentieri. Prego. Come dicevo, è la storia quindi di una morte giovane. Il libro è costruito secondo un percorso che è il percorso di un io morente, quindi attraverso le sue fasi fino che sono poi le fasi dell'agonia, perché le fasi dell'agonia sono sempre sette, e al culmine, nella settima fase, c'è appunto quel distacco che chi sta morendo ha nei confronti della vita e dei viventi, no? Indipendentemente dai legami di sangue, d'affetto, d'amore, eccetera. E quando chi sta morendo, come dire, solleva gli occhi, improvvisamente non si vedono più le sue pupille, ma solo il bianco, no? Ecco. Io ho voluto proprio raccontare questo percorso, intanto per l'esperienza della morte del morire, di cui parlavamo prima, in un'ottica, in una chiave, in fondo non negativa, ma paradossalmente positiva, luminosa, ecco. E nello stesso tempo raccontare le storie di molti giovani che sono morti troppo presto. È la storia anche di molti miei coetanei. Io appartengo a una generazione, una parte della quale si è persa dietro alla droga, e quando non è rimasta vittima della droga è riuscita a recuperare, a risollevarsi, poi dopo ha scoperto di essere diventata immunodeficiente, e condizione che allora non aveva cura, perché l'immunodeficienza fino a qualche anno fa era incurabile e uno si riduceva in pochi mesi come se avesse vissuto 200 o 300 anni. Era spaventoso dal punto di vista proprio di chi assisteva queste persone. E la gioia e il lutto è proprio la storia di una di queste persone che sta morendo per AIDS. E oggi le cose sono cambiate perché c'è questo cocktail di farmaci che blocca la situazione, ma nel mio interesse, oltre al fatto di poter parlare di quello che un percorso di morte paradossalmente riattiva nel senso della vita, cioè per esempio i rapporti tra le persone, rivivifica il rapporto per esempio tra padre, tra figlio e padre, tra figlio e madre, riporta paradossalmente come dire, al positivo il desiderio e l'amore per la vita in persone, come succede con quelli che sono diventati tossicodipendenti, che lo hanno completamente perduto. Ecco, questi sono aspetti che io coltivo nel libro e che realizzo appunto attraverso questa storia, che è una storia anche del tabù della morte nel nostro tempo. Il nostro tempo è impietoso perché pur avendo cancellato tutti i tabù ne ha mantenuto solo uno, la morte. Lei sa bene che di morte non si parla mai e la si sottrae agli occhi sempre degli altri, sì. La si isola in luoghi che sono deputati come l'ospedale e deve star chiuso lì, no? Uno dei più grandi errori è quello di nascere e morire in ospedale. Bisogna nascere e morire in casa, perché la vita e la morte fanno parte di una quotidianità che non deve essere isolata, perché isolandola si trasforma in tabù, e il tabù è un elemento negativo che mette addosso alle persone solo terrore. È vero. Beh, ma una volta nascevano in casa, ma certo. Adesso forse lo fanno per comodità, forse. No, è un errore grandissimo, cioè salvo casi eccezionali in cui ci sia la necessità di essere in ospedale per complicazioni possibili o immaginabili, l'ideale è nascere in casa per tante ragioni, anche per il nascituro, perché il nascituro ha bisogno di venire fuori dall'utero della sua mamma in una luce un po' in penombra, nelle stanze della casa dove si vive tutti i giorni, non sotto la luce neon di una sala parto, nel bianco o nel neutro o in quel tipo di isolamento carcerario che è un ospedale. Ecco, da questo punto di vista, ripeto, per me è una delle ragioni per cui ho scritto il libro, ma sì. Le dirò una cosa di più, ho citato l'ospedale come situazione carceraria, un altro dei miei libri. Difatti lei proprio parla come io parlo proprio addirittura in un libro delle carceri. E anche sto ragazzo ricorda che magari andava nell'ufficio del papà, nello studio del papà, e papà magari era un po' indifferente nei suoi confronti. Certo, magari ecco, perché sì. Impegnato ecco, sì, nel appunto. Lavoro, sappiamo che purtroppo la vita quotidiana ci trascina anche fuori dagli interessi primari, no? E ci fa occupare di cose che tutto sommato sono secondarie rispetto ad altre che dovrebbero invece essere primarie, come il rapporto con i propri figli o con... Ma infatti ne parla un po', solo che erano ormai mezzanotte, ho detto bisogna che... però mi interessava moltissimo questo libro, mi dava... Ma per esempio il fatto di morire in casa non è facile, penso. Non è facile, cioè dipende. È chiaro che tutto è diventato più difficile nel momento in cui la famiglia è diventata famiglia nucleare e non più famiglia allargata come era una volta. Però, come dire, insomma, noi dovremmo essere capaci di risolvere problemi come questi, che sono comunque problemi relativi. Io credo che ancora più importante naturalmente sia nascere in casa, però se anche in casa, se lei ricorda cosa succedeva nelle famiglie patriarcali, dove convivevano i nipotini con i nonni anche anziani e dove magari il nipotino saliva sul letto di morte del nonno o del bisnonno addirittura, ecco, è chiaro che questo è impraticabile oggi come oggi rispetto alla famiglia nucleare, però voglio dire, ci sono tante altre possibilità intermedie, a differenza di quella soluzione appunto apparentemente come dire liberatoria e sicuramente magari pratica però spiccia dell'ospedale. Per forza, perché la gente lavora, non ci sa come assistere il malato, dopo ti dicono le infermiere costano care, e quindi anche perché penso che non ci sia neanche modo che, non so, il comune dia possibilità di assistenza anche familiare. Beh, qualcosa si fa naturalmente in certe situazioni, in particolare per i bambini, per i quali è ancora più fondamentale il fatto che si possa, quando si può, seguire terapie anche importanti a casa con un'assistenza da fuori. Ma capisco, certo, tutto questo diventa impraticabile se lo si guarda nella chiave e nell'ottica, come dire, insomma, monetaria. Voglio dire, sempre di più sta riprendendo fiato quel tipo di disposizione, come dire, al volontariato, che resta fondamentale, che dovrebbe diventare sempre più fondamentale, nel senso che ci sono cose che non si possono e non si devono fare essendo pagati, ma perché uno sente la necessità e il bisogno di farlo per un coinvolgimento d'altro genere, d'altro tipo. E invece è difficile trovare dei volontari che si prestino, non è facile, almeno la mia esperienza, ecco. Ma niente è facile, ecco. Però più andremo, come stiamo andando, verso una condizione di miseria, più sarà più facile tornare a fare quello che si faceva una volta. Difatti hanno detto che nelle case di riposo adesso che a Treviso ci sono più posti, perché si vede che le famiglie cercano di tenersi i nonni in casa, anche perché hanno una piccola pensione per dare una mano, insomma, anche penso io. Perché prima non si trovava mica posto nelle case di riposo. È vero, certo. Sì, ma ci sono tantissime persone anziane anche che vivono da sole, magari con pochi soldi per vivere, abbandonate così a se stesse. Questo è una piaga dell'umanità. Lo è certamente. Perché, insomma, mi parli così, ma non so, di qualcos'altro. Volevo chiederle io, qual è, sono talmente tante, delle sue opere, quella che lei predilige? Beh, è molto difficile a dire. Sì, lo so che è una domanda un po' difficile. Nel senso che in realtà non ho una gerarchia, una vera gerarchia, però certamente prediligo la poesia rispetto alla narrativa. Nello spazio della poesia in realtà non ho delle preferenze, perché tutti i miei libri convivono e li sento vicini e uguali per me, quindi senza la possibilità di fare, come dire, di dettare un ordine di preferenza. Adesso io, se le chiedessi cosa mi consiglia di leggere, sì, che so che lei ha scritto, che le sta proprio a cuore, che cosa mi consiglierebbe? Beh, le consiglierei di leggere, lei che ha letto già gran parte della Gioia e Lutto, di finire la Gioia e Lutto, e magari poi di leggere Le Stanze del Cielo come poesia, e come narrativa le consiglierei di leggere I Racconti di un'altra vita. Ah, e lo farò, sa, lo farò perché penso, sì, leggendo queste pagine, un po' di pagine di questo, la Gioia e il Lutto, veramente mi ha fatto, oltre che farmi riflettere, mi ha fatto vivere in un mondo diverso. Sì, che alle 11:30 di notte uno si mette a leggere queste cose, eppure È perché dopo, sì, a una certa ora, ma veramente mi hanno dato qualcosa, mi hanno proprio arricchito quelle pagine, le dico la verità. E vuol citare qualcos'altro che sta così? Beh, a cuore anche un altro libro di racconti che si chiama Preparativi per la partenza, che sono racconti dedicati ciascuno ad un protagonista stranissimo. Cioè c'è un tipo di stranezza nelle persone che, quando è una stranezza assoluta, è un'occasione di salvezza in realtà nella vita quotidiana, proprio di salvezza nel senso anche spirituale, quindi esistenziale. Quindi sicuramente un altro libro che citerei è proprio questo, Preparativi per la partenza. Cioè questi racconti parlano di persone strane? Sì. Di persone in cui la stranezza è diventata decisiva nelle scelte anche radicali o rivoluzionarie della propria vita. Capito. Per cui sì, magari fanno delle cose che magari noi, che non siamo strani, non ci sembrerebbe una cosa un po' fuori luogo. Sì, ma ecco perché in realtà anche noi abbiamo le nostre stranezze, ma non abbiamo il coraggio di perseguirle fino in fondo, perché occorre il coraggio di decidere di cambiare in maniera rivoluzionaria la propria vita. È quello che fanno i protagonisti delle storie, dei preparativi per la partenza. Ma sa perché qualche volta uno non, anche se ha qualche stranezza, perché siamo un po' succubi dei giudizi degli altri. Certamente, ma bisogna cercare di liberarsi da questo tipo di schiavitù. Sì, è vero che questo è un tipo di schiavitù, però per quanto uno cerchi di liberarsi, resta sempre quel fondo di... Sì, io tante volte mi baso anche sulle mie esperienze, che ormai sono diventata un po' aggressiva, nel senso che magari c'è qualcosa di particolare che io voglio fare, che... ma per fare... Ho imparato che adesso dico che gli affari miei me li sbrigo io. Però non è facile sempre, anche perché poi quando io mi sono ben ribellata a questa cosa, però dentro di me non è che mi sento liberata, mi sento come amareggiata. Amareggiata perché queste persone non capiscono questo mio modo di essere, di intendere le cose. Questo lo capisco, è vero, è una reazione. Allora, ormai siamo quasi arrivati alla fine della nostra bella e costruttiva chiacchierata. Ci sono ancora pochi minuti, se ancora lei vuole citare un piccolo argomento, qualcosa che le sta a cuore, e se no bisogna che ci rinnoviamo gli auguri e ci salutiamo. Ma c'è qualche minuto ancora, se vuole? Sì, beh, quello che posso aggiungere è proprio in relazione a quest'ultimo discorso che stavamo facendo. D'altra parte siamo partiti, e siamo nel giorno di Pasqua, siamo partiti da questa, come chiamarla, storia riraccontata in versi della passione e morte del Cristo, ma anche nelle sue parole c'è sempre netto questo suggerimento, cioè di non essere... come dire, di non lasciarsi condizionare dalle convenienze, meno che mai dalle apparenze, meno che mai sottostare, diciamo... al giudizio degli altri. Certamente. Certo. E perseguire senza timore, senza paura, proprio quello che sentiamo necessario di dover fare. Sì, ecco. Non lo facciamo proprio per questo. Scusi professore, volevo anche portarle i saluti della Lia De Martin, che doveva essere qui anche lei oggi. Con noi stasera, solo che ha avuto altri impegni e ha dovuto assentarsi da San Pietro di Feletto per andare a Milano, e quindi non è con noi, ecco, anche lei, ma tanto detto di salutarla tanto, e vorrà dire che farò un disco per Lia per registrare la nostra trasmissione. E noi le mandiamo gli auguri di Pasqua attraverso la radio. Ecco, allora rinnoviamo gli auguri a tutti, dando appuntamento a domenica prossima, a Dio piacendo, perché bisogna sempre dire così. Sa? Io non so come ringraziarla di essere stata con me. Sa che cosa ho detto ieri sera io tra me? Passi da me questo calice, perché lei è una persona importante così com'è, e non mi sentivo alla portata sua. Ma figuriamoci, assolutamente non esiste il problema. Glielo dico con tutto il cuore. Però Me è stato un piacere essere suo ospite e alla prossima occasione. Ah, io spero. Ah, ecco, se mi dice così mi dà veramente tanta gioia, perché io ci tenevo tanto, però sa, si ha sempre paura di non essere all'altezza di certe persone come lei, ecco. Allora, la ringrazio e l'aspetto per una prossima volta, le rinnovo gli auguri, rinnovo a lei e a tutti gli ascoltatori e come sempre dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.